Essere completamente uomo significa avere le passioni obbedienti alla volontà e la volontà offerta a Dio. C.S. Lewis. Uomo di Dio si diventa, non si nasce. Essere maschi o femmine dipende dalla nascita. Diventare uomini o donne di Dio è una questione di scelta. Mosè fu chiamato, da Yahweh, a liberare Israele dalla schiavitù d'Egitto, ma, in seguito, Yahweh cercò di farlo morire. Fu salvato dalla moglie, che circoncise suo figlio. Saul fu eletto re di Israele, ma, in seguito, fu rigettato da tale compito perché peccò d'orgoglio. Gesù scelse Giuda come apostolo, ma questo divenne il figlio della perdizione, perché tradì il suo maestro. Una scelta, una chiamata, non assicurano automaticamente che si diventerà ciò per cui si è stati scelti. Ogni cristiano è stato scelto, eletto, ma non tutti i cristiani diventano uomini o donne di Dio. Eppure, Dio ha bisogno d'uomini e donne particolari per compiere grandi cose. In ogni epoca, l'Eterno è intervenuto nella storia del suo popolo mandando un suo uomo. Al tempo in cui la malvagità degli uomini era grande sulla terra, Yahweh distrusse il genere umano per mezzo del diluvio, ma un uomo trovò misericordia ai suoi occhi, Noè. Al tempo in cui pullulavano sulla terra false religioni, Yahweh chiamò un uomo perché lo seguisse, Abramo. Al tempo in cui il popolo di Israele viveva angariato in Egitto e invocava la liberazione, Yahweh scelse un uomo, Mosè. Al tempo in cui il popolo di Dio viveva nell'anarchia, egli mandò uomini consacrati, i giudici. Al tempo in cui Israele volle avere un re, Yahweh ne scelse uno secondo il suo cuore, Davide. Al tempo in cui Israele era governato dal peggiore re di Israele, Acab, e dalla sua malvagia, moglie Jezebel, Yahweh mandò un profeta che ebbe il coraggio di sfidarli, Elia. Quando Cristo scelse i dodici apostoli ne elesse uno affinché annunziasse per primo il Vangelo, Pietro. La Chiesa rispecchia il popolo di Israele. Forse oggi la Chiesa ha bisogno di un uomo di Dio, forse. Nella tua Chiesa occorre un uomo di Dio che riconduca la sposa di Cristo ad un risveglio. Vuoi tu essere quest'uomo? Sì, mi dirai, ma chi è un uomo di Dio? Posso io diventare un uomo di Dio? A queste domande rispondo di sì, ma dobbiamo prima fare alcune riflessioni. Innanzitutto consideriamo come non sia un uomo di Dio. Non è perfetto. Noè, un uomo che l'Eterno trovò giusto tra i suoi contemporanei, si ubriacò. Abramo mancò di fede cercando la progenie promessagli dall'Eterno dalla sua serva Agar. Mosè perse la pazienza, il che gli costò il divieto di entrare nella terra promessa. Davide, a causa del censimento da lui ordinato, fece morire centinaia di persone. Elia, uno strumento indiscusso nelle mani di Dio, si scoraggiò. È un uomo che può commettere gravi peccati. Davide si macchiò di tradimento, di malizia. Egli uccise uno dei suoi migliori soldati dopo aver commesso adulterio con la moglie di questo. Pietro, esempio di zelo e di abnegazione, dopo aver promesso a Gesù che l'avrebbe seguito fino alla morte, lo rinnegò pubblicamente. Giosuè era geloso di Mosè, numeri 11, 10, 17 e 24, 29. Giovanni era geloso del suo gruppo, Luca 9, 46, 49. Giacomo e Giovanni erano pieni di zelo, ma privi di amore, Luca 9, 51, 56. Noi possiamo anche accettare l'imperfezione di un uomo, ma non certi suoi errori. Eppure, un uomo di Dio può macchiarsi anche di gravi colpe. Non è un uomo con tutte le qualità, cioè completo. La nostra fantasia e la nostra cultura ci portano a considerare un uomo di Dio alla stregua di un Superman, sempre all'altezza della situazione. Davide aveva indubbiamente un discernimento spirituale superiore alla media, ma come padre lasciava molto a desiderare. Egli non rimproverò mai suo figlio Adonia, 1 Re 1, 6. Mosè, scelto da Yahweh per essere condottiero di un popolo, era lento di parole e di lingua, Esodo 4 e 10. Non è necessariamente una delle persone più istruite. Al tempo del profeta Samuele non mancavano certamente gli uomini istruiti, eppure Yahweh si scelse Davide che faceva il pastore. Il profeta Amos era un mandriano e coltivava sicomori. Al tempo di Gesù c'erano uomini preparati nella legge e nell'insegnamento, eppure Gesù scelse anche dei pescatori quali apostoli. non è necessariamente un leader, un carismatico. Si pensa che qualità indispensabile per essere un uomo di Dio sia avere una forte personalità. Infatti, la Scrittura chiama uomini di Dio persone come Mosè, Davide, Elia, Eliseo. Eppure, Paolo definisce Timoteo, che era un discepolo timido e spesso malaticcio, uomo di Dio, 1 Timoteo 6:11. Egli inoltre attribuisce lo stesso titolo a chiunque si lasci istruire e correggere dalla Scrittura. 2 Timoteo 3:16-17. Come è, o chi è dunque, un uomo di Dio? Forse la mia risposta ti lascerà stupito. Esso è ciò che dice la definizione. UN-UOMO-DI-DIO. Esaminiamo questa definizione. L'uomo di Dio è, prima di tutto, un uomo. Quando noi affermiamo che Tizio o Caio sia un uomo, siamo in grado di farlo perché nella nostra mente abbiamo chiara la differenza che passa tra l'uomo e il bambino. In pratica, contrapponiamo l'uomo al bambino. Questa contrapposizione non la facciamo in base alla maturità sessuale o all'età, perché noi potremmo anche affermare che Tizio e Caio si comportano da bambini benché siano adulti. Esprimendoci in questo modo facciamo presente che la differenza tra l'uomo e il bambino non è fisica, ma comportamentale. Quello che distingue allora l'uomo dal bambino è, soprattutto, il modo di comportarsi, di relazionarsi con il prossimo. Nel campo spirituale le cose non sono molto diverse. Esistono i credenti bambini e i credenti uomini. Che vi siano credenti bambini è normale, perché quando si nasce di nuovo, cioè diventando figli di Dio, si è, nel primo momento, bambini in Cristo. La tragedia è rimanerlo anche dopo 10, 20, 30 anni dalla conversione. È normale essere bambini alla nascita, è anormale rimanere bambini. E, un handicapitolo, la Scrittura ci riferisce di credenti handicappati, erano i destinatari della lettera agli Ebrei. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti. Per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Ebrei 5:11-14. I destinatari di questa lettera avrebbero dovuto, causa il tempo trascorso, diventare adulti nella fede. Ma essi non erano in grado di afferrare e affrontare certe verità perché erano spiritualmente immaturi. Spesso le conversazioni tra credenti non si discostano da quelle dei non credenti, proprio perché non si sanno affrontare argomenti importanti e seri. Si parla di nullità, cercando di evitare le problematiche che coinvolgono il vivere quotidiano, che impegnano, che mettono a nudo le zone di agnosticismo nella vita di pensiero di un cristiano. Essere bambini nello spirito comporta gravi conseguenze. Ecco cosa scrive Paolo ai Corinzi. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate come qualsiasi uomo? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono d'Apollo, non siete forse uomini carnali? 1 Corinzi 3:1-3. Un bambino spirituale si comporta come un bambino naturale, punta i piedi, pianta grane, si arrabbia per un non nulla, crea dei partiti, è geloso della mamma, dipende da chi lo nutre. In definitiva, il credente che non è adulto ma carnale, egli vive, reagisce, parla, secondo gli impulsi naturali. Anche per Paolo, quello che distingue un bambino da un uomo in Cristo, è il suo relazionarsi con il prossimo. Forse per questo la comunione fraterna è così difficile da realizzare, così impegnativa e spesso così dolorosa. Più che una comunione tra adulti, spesso la Chiesa, di fatto, è un asilo, dove vi sono bambini che si offendono con nulla, non mi hai salutato, e si fanno dispetti, rendo la moneta che ho ricevuta. Abbiamo tutti assolutamente bisogno di diventare degli uomini se vogliamo essere usati da Dio efficacemente e anche migliorare i rapporti con i fratelli, perché inevitabilmente ognuno di noi trascinerà con sé i suoi problemi psicologici. Non solo, ne sarà condizionato. Riporto alcune pagine del vecchio libro Perché ho paura di amare di John Powell. L'autore afferma che, dalla nascita alla morte, l'esistenza sia una crescita incessante verso la maturità completa. E scrive: l'immaturità è contraddistinta dal fatto che l'uomo converge la propria attenzione su se stesso. Tutti i segni dell'immaturità hanno tale caratteristica. Questo egocentrismo si manifesta in vari modi: rancori, pregiudizi, volto perennemente imbronciato, riflessione condizionata dall'emotività, esagerato senso di inferiorità, eccessiva preoccupazione per altrui, opinioni su di noi, tormentosa inquietudine, iperdipendenza dai genitori o dalla famiglia, atteggiamenti ribelli e stizzosi, esplosioni di collera, critica puramente distruttiva, abitudine a temporeggiare, umorismo grossolano col quale si umilia il prossimo, amoreggiamenti superficiali. Ecco invece i contrassegni della maturità: la capacità di aprirsi agli altri, di andare d'accordo con essi, di esercitare una ragionevole autonomia, di proporsi obiettivi realistici, di agire con discernimento e prudenza, di distinguere ciò che nella vita è importante da ciò che non lo è. E ancora la duttibilità, l'adattabilità e la stabilità emotiva. L'autore passa poi a considerare la maturità vista sotto quattro diversi aspetti: maturità intellettuale, maturità emotiva, maturità sociale, maturità morale. Ecco come le presenta. La maturità intellettuale ha due caratteristiche: la capacità di formarsi opinioni proprie, rispettando ma non sposando criticamente le opinioni degli altri, e la capacità di prendere decisioni proprie, tenendo conto della situazione oggettiva e dei consigli altrui, ma conservando un atteggiamento di indipendenza e di fermezza. La persona intellettualmente matura è disposta a cambiare il suo pensiero se sopraggiungono nuove importanti prove in altro senso e modificare i suoi piani quando ciò le risulti saggio, ha convinzioni sue, prende decisioni sue e se ne assume la piena responsabilità, è pronta a render conto delle proprie idee e del proprio comportamento ed è pronta a riconoscere la verità anche quando le è sgradevole e le impone sacrifici. Non sta davanti ai suoi problemi lasciandosi dilaniare da essi. Li analizza serenamente, considera le varie alternative. Arriva a una decisione e la esegue, conformando ad essa la sua vita. La maturità emotiva ha due caratteristiche indisgiungibili: l'accettazione delle emozioni e la capacità di controllarle razionalmente. La persona emotivamente matura non rifugge dalle situazioni cariche di emotività, ma impara ad affrontarle in maniera oggettiva. Eventualmente esprime il suo disaccordo piuttosto che tenere il muso, accetta le critiche senza considerarle un affronto personale, riesce a sostenere e a fare cose per lei sgradevoli quando è necessario, resistendo alla voglia di scansarle. Non è mai sopraffatta da paure e ansietà infantili. Tanto il sovversivo, che vuole cambiare tutto, a partire dalle fondamenta, quanto il conservatore, che vuole che la barca proceda senza scosse ed è profondamente attaccato allo status quo, sono emotivamente immaturi. La maturità sociale è caratterizzata dalla capacità di andare incontro agli altri, di relazionarsi bene ad essi e di stringere amicizie costruttive. La persona socialmente matura non è troppo legata alla famiglia e agli amici, né d'altro canto gli si mostra ostile. Riesce ad adeguarsi alle leggi e alle convenzioni della società in cui vive ed è capace di subordinare se stessa tanto al perseguimento degli ideali del gruppo quanto al soddisfacimento delle esigenze del gruppo, trova infine che il lavoro può essere interessante, malgrado certi aspetti monotoni o faticosi. La maturità morale ha come caratteristiche la fedeltà a un ideale etico e la capacità di manifestarlo. La morale di un bambino è in genere istintiva, irriflessa, e la morale dei genitori e di coloro che lo circondano. Durante l'adolescenza, la persona che moralmente sta maturando elabora il proprio ideale etico nonché un metodo per realizzarlo, un metodo abbastanza preciso e razionale. Via via che la maturità cresce, normalmente l'ideale diventa più realistico, più logico e anche più solido. In genere si può dire che l'ideale etico degli individui moralmente maturi si colloca in una prospettiva altruistica, non egocentrica. Dopo questa lettura molto probabilmente nessuno di noi si riterrà un uomo, una persona adulta. Dobbiamo tener conto che qui è contemplata la vita nel suo insieme, non nei particolari. Posso essere arrabbiato per un breve tempo, senza per questo essere privo di una maturità intellettuale. Posso cedere ad un'emozione illecita, senza per questo essere emotivamente immaturo. Quello che rende bambino un credente non è la caduta, perché come abbiamo considerato grandi uomini di Dio, hanno sbagliato, ma è non trarre profitto dagli errori. È vero che si commettono errori. Quando si lavora per il Signore ma la vita è troppo breve e l'eternità troppo lunga, per restare fermi agli errori del passato. L'errore sarà ancora più grande se non si lavora affatto. E, meglio, sbagliare che sbadigliare. Se Pietro, l'apostolo di Gesù, avesse dato troppa importanza ai suoi errori, non avrebbe in seguito servito con tutto il cuore il suo Salvatore. Essere timoroso di fare errori è l'errore che alcuni spesso commettono, ma la crescita equilibrata, sia spirituale sia psichica, si avvale anche degli sbagli. Esistono insuccessi che rivelano, meglio dei successi, quello che è insito nel più profondo di noi stessi. Essere sconfitti è spesso una condizione temporanea, ma darsi per vinto la rende permanente. È stato affermato che molti siano diventati grandi uomini perché hanno saputo costruire la propria vita con le pietre tirate loro da altri. Ma è altresì vero che si possa diventare grandi riutilizzando i propri cocci. Come e chi è, dunque, un uomo? Un uomo è colui che, prima di tutto, sia tale a livello umano, psicologico, perché se manca l'equilibrio psichico, egli non potrà diventare un uomo di Dio. Se la nostra personalità non è sviluppata, è illusorio voler essere uomini nelle mani di Dio. Prima di essere dei cristiani, noi siamo uomini con quella parte in noi che si chiama inconscio. Vi sono azioni della nostra vita quotidiana che sfuggono al controllo della nostra ragione. Questo settore della nostra psiche, di cui ignoriamo il funzionamento, agisce in noi senza che ce ne rendiamo conto. Perciò, se siamo ancora psicologicamente bambini, non possiamo avere un comportamento da adulti. Così, spesso abbiamo problemi con noi stessi e con altri per motivi psicologici e non necessariamente per delle ragioni peccaminose. Inoltre, i nostri comportamenti non sono sempre quelli reali. A volte una certa arroganza non è altro che timidezza. Una certa cocciutaggine è dovuta a mancanza di istruzione. Se abbiamo compreso ciò, ci condanneremo molto meno gli uni e gli altri, diventando perciò più comprensivi. Ci vuole del tempo per convincerci di non poter servire Dio in modo proficuo se non siamo diventati degli uomini. Come nessuno di noi riesce a trarre un suono armonioso da un piano scordato, così Dio non può far suonare armoniosamente con il suo spirito la nostra vita se in noi vi sono delle corde stonate. Se abbiamo dei problemi psicologici, il nostro messaggio cristiano ne risentirà. Se non abbiamo risolto i nostri complessi, non possiamo aiutare efficacemente il prossimo. Noi incoraggiamo i credenti ad essere attivi, e ciò è bene, ma dobbiamo anche insegnare loro che solo il professionista è in grado di svolgere bene un incarico. Il volontariato è lodevole, ma l'ignoranza e l'incapacità precluderanno, sempre, la riuscita di un buon lavoro. Come diventare un UOMO? Paolo scrisse a Timoteo: «Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona». 2 Timoteo 3, 16-17. Esclamava il salmista: «Oh, quanto amo la tua legge, e la mia meditazione di tutto il giorno!» Un uomo di Dio è colui che legge, medita, ama ed osserva la parola di Dio come la cosa più preziosa di questa vita. E colui che esige dalla sua vita cristiana che la verità venga tradotta in azione, che l'amore sia espresso nell'ubbidienza. Egli rifiuta una vita caratterizzata da un'alta pressione di parole e un'anemia di fatti. Un uomo di Dio è colui che sviluppa le sue facoltà e le esercita a discernere il bene e il male. Una facoltà non esercitata non cresce. Tutti hanno il dono della memoria, ma c'è e chi ne ha di più e c'è e chi ne ha meno. Chi coltiva la memoria ne vedrà il progressivo sviluppo. Chi non compie alcuno sforzo per ricordare la svilisce, la impoverisce. Così, per i nostri arti, se non li usiamo, diventeranno fiacchi e perderanno sempre più il loro vigore. Tutto questo avviene in base ad una legge fondamentale: ciò che lasciamo da parte, senza adoperarlo conformemente allo scopo cui esso è stato destinato, subisce un lento e inevitabile processo di atrofia. Così è della fede. Se non è esercitata, alimentata, si rimane spiritualmente bambini. Davanti a Dio dovremmo rendere ragione del fatto che non siamo diventati uomini, poiché avevamo a portata di mano il necessario per diventarlo e non ci siamo nutriti sufficientemente. L'amorevole invito di Paolo a Timoteo è più che mai opportuno. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. 1 Timoteo 4 e 14. Un uomo di Dio sa attendere. Spesso si vuole tutto e subito, ma questo atteggiamento non piace a Dio. Abramo vide la realizzazione della promessa di Dio 25 anni dopo. Per poche ore di impazienza, Saul perse il regno. 1 Samuele capitolo 13. I credenti dell'Antico Testamento morirono senza vedere realizzate molte delle promesse di Dio. Saper aspettare è un atto di maturità. Se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Galati 6, 9-10. Dio ha promesso che il lavoro fatto per Lui porta sempre dei buoni risultati. E se non li vediamo, chiediamoci se la causa non sia la nostra impazienza. Facciamo dunque del bene a tutti, preghiamo per gli amici e per i nemici, e lasciamo a Dio l'esito delle nostre buone azioni. Un problema di tanti giovani è non aver ancora trovato la ragazza o il ragazzo. Essi non sanno aspettare, o non vogliono più aspettare. Uno di loro mi ha detto recentemente: «Se Dio non mi risponde, faccio una pazzia, così impara». Dio vuole da noi il primo posto, non per sadismo, ma per il nostro bene. Se per noi Dio è tutto, il resto sarà un di più. Diversamente, non avremo né Dio né il resto. Anch'io, quando ero giovane, desideravo ardentemente avere la ragazza, ma questo non mi impediva d'essere attivo nella Chiesa, d'occuparmi degli altri, di testimoniare. Attendere una risposta da Dio non significa sedersi e rimanere inattivi, ma continuare a dedicarsi a Dio e alla sua opera. Questa è la giusta e vera attesa. Molte vite sono state rovinate con la fretta. Saper aspettare è un atto di maturità. Il ragazzo, scriveva una psicologa, oggi diventa grande in fretta, ha alti interessi, ha grandissime e quasi sempre pulite idealità, e viceversa, resta più a lungo nell'adolescenza. Vediamo ogni giorno studenti universitari di 25 anni, in cui è ancora incompiuto il processo maturativo di costruirsi qualcosa. Cioè il pensiero razionale è in anticipo e la parte emotiva è in ritardo. Il pericolo dei giovani è proprio nella loro incapacità di inibirsi, cioè di rinviare un istinto. Il bambino vuole mangiare, strilla perché la madre non cic. È maturando, riesce ad aspettare l'ora del pasto, cioè rimanda il desiderio di avere subito il cibo. E lo fa con un processo di inibizione, man mano che riesce a capire che la mamma non è distrutta, non è morta. Ora le generazioni attuali sono carenti su questo piano, nella misura in cui tendono di più alla disinibizione, cioè non vogliono rimandare i loro desideri. Ma questo non è essere maturi, non è essere adulti. Anche Pietro invitava i destinatari delle sue lettere a diventare uomini. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. 1 Pietro 2, 1 a 2. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2, 9. Per diventare uomini occorre 1. Deporre invidie, malizia, maldicenza, le caratteristiche di un bambino. 2. Amare ardentemente la parola, le caratteristiche di un uomo. 3. Testimoniare di Cristo, le caratteristiche di un uomo di Dio. Si è giovani una volta sola, ma si può essere immaturi fino alla vecchiaia. Solo quando, se siamo uomini, Dio ci può usare come tali. Dio è onnipotente, ma non può servirsi di un bambino e usarlo come uomo. UNUOMODIDIO. Se è difficile essere un uomo, ancora di più è esserlo di Dio. Forse questo è il peccato più comune e il meno conosciuto dei credenti. Leggiamo cosa scrisse Paolo ai Corinzi. Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Cloè che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io d'Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? I Corinzi amavano il Signore, erano zelanti, erano pieni di doni spirituali, ma non erano di Dio. Ognuno di loro era fiero di appartenere ad una fazione, eppure coloro che dicevano di essere di Cristo non erano uomini che dipendessero da Dio. Anche Paolo ammise di essere caduto, prima della sua conversione, nella trappola di piacere agli uomini. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Galati 1 e 10. Sono pochi i credenti che cercano di piacere a Dio. Si cerca piuttosto di piacere e di compiacere alla comunità, alla missione, agli amici, a se stesso. Piacere a Dio, molto spesso, comporta di non piacere agli uomini. Paolo, il grande uomo di Dio, era odiato dai suoi correligionari e poco considerato dai credenti. Se è vero che quello che è eccelso davanti agli uomini sia in abominio davanti a Dio, è altresì vero che gli uomini difficilmente apprezzano ciò che Dio gradisce. Ciò non significa che per piacere a Dio si debba per forza litigare con tutti. Gesù cresceva in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Siamo tutti esortati a fare ogni cosa come se fosse fatta per il Signore. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite i vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Colossesi 3, 17-25. Dio è imparziale e terrà conto del nostro operato. Un uomo di Dio è colui che cercherà la gloria del suo Salvatore. Non a noi, o Eterno, non a noi ma al tuo nome da gloria, per la tua benignità e per la tua fedeltà. Salmo 115:1. Al tempo dell'Apostolo Paolo alcuni predicavano per invidia, pensando di recargli, così, un torto. Ma egli se ne rallegrava perché comunque la parola di Dio veniva predicata. Filippesi 1, 12-20. Un uomo di Dio non è geloso, come lo furono Giosuè e Giovanni il fratello di Giacomo. Essere di Dio significa non essere settari, rallegrarsi della verità, avere una visione dell'opera di Dio ampia, aperta. Mentre Giacomo e Giovanni avevano vietato di scacciare i demoni a chi non stava con loro, come uomo di Dio, Paolo invece si rallegrava che comunque il regno di Dio avanzasse. Se il ventunesimo secolo sarà caratterizzato dalla confusione spirituale, l'uomo di Dio sarà colui che avrà un messaggio chiaro e preciso, ma anche colui che terrà presente quanto espresso in Isaia 32, 20. Beati voi che seminate in riva a tutte le acque e che lasciate andar libero il piede del bue e dell'asino. Mai come oggi si è propensi ad esporre i propri dubbi anziché le proprie convinzioni. L'uomo di Dio non imporrà nulla, sarà aperto ad eventuali confronti ma predicherà le certezze che saranno scaturite da una lettura costante della parola di Dio. Questo è dunque l'uomo di Dio. Egli è una persona, matura fisicamente, psicologicamente e spiritualmente, e che vive per piacere a Dio. L'Apostolo Paolo mette a confronto l'uomo e il bambino in 1 Corinzi 13, il capitolo più famoso, sull'argomento amore. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Paolo ha espresso questa affermazione dopo aver spiegato come sia l'amore, per mettere in evidenza che si diventi uomini solo amando. Le caratteristiche del bambino sono quelle di fare capricci, di irritarsi, di curare solo i propri interessi, di pensare solo a se stesso, eccetera. Ma quando si diventa uomini, si smettono questi atteggiamenti. Se non si abbandonano, si è ancora dei bambini. Un uomo è chi ha e offre un amore psicologicamente maturo. Dio è amore. L'amore è da Dio. Chi ama conosce Dio. Il credente è in grado di amare perché ha lo Spirito Santo e quindi può comportarsi da uomo. Ciò non significa che tutti i figli di Dio abbiano un amore maturo, ma chi ha lo Spirito Santo è come colui che ha la patente, può guidare, ma se non guida, disimpara. La carta d'identità dell'uomo di Dio è l'amore. Gesù disse, «Da questo vi conosceranno, se siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Quasi tutte le apologetiche della fede cristiana possono essere imparate a memoria e recitate dai pulpiti, senza lasciar traccia in chi le ascolti. Non così quell'apologetica della fede che è l'amore. L'amore sarà sempre l'argomento più persuasivo, è il mezzo più efficace. Il mondo che si chiede se Dio sia morto, il mondo che si chiede chi sia Cristo, può ricevere risposta solo dai cristiani. Sia ottimo o pessimo il servizio che rendiamo, noi, agli occhi del mondo, siamo Cristo. Ci è stato tramandato il seguente episodio sull'evangelista Giovanni. Negli ultimi anni della sua vita, l'evangelista stava seduto ogni giorno per molte ore a conversare con i suoi discepoli. Uno di questi si lamentò e disse, «Giovanni, tu ci parli sempre dell'amore, ripeti continuamente che Dio ci ha amati e che noi dobbiamo amarci gli uni e gli altri. Perché non ci dici qualcos'altro?» Egli rispose, «Perché non sench? È altro da dire, amate, amate, amate. L'amore è una strada lunga e ciottolosa. Un altare sacrificale. Richiede un prezzo molto alto, il dimenticarsi di sé, la rinuncia a pretendere qualcosa per se stessi. Ma l'amore è anche l'unica strada che attraversi la pianura dell'esistenza umana e che conduca ai piedi di Gesù Cristo, colui che è amore. Vuoi tu essere un uomo o una donna di Dio? Ho fiducia che tu lo desideri con tutto il cuore. Voglio però prepararti. Un uomo di Dio non deve avere la pretesa di essere compreso o considerato. Leggiamo l'episodio del rinnegamento di Pietro. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò, dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo: «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù, che gli aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E, andato fuori, pianse amaramente. Matteo 26, 69-75. Gesù è indubbiamente l'uomo per eccellenza. Pilato disse: «Ecco l'uomo». Gesù è stato nella vita terrena il perfetto uomo di Dio, perché era maturo psicologicamente, intellettualmente, emotivamente, sia a livello sociale sia in relazione a suo padre, compiendo del continuo la sua volontà. I suoi discepoli, per 3 anni, avevano avuto occasione di valutarne il comportamento nelle più svariate situazioni. Eppure, quando egli stava per terminare la sua missione, Pietro affermò di non conoscerlo. Sostenendo una bugia, Pietro, senza rendersene conto, stava affermando anche una grande verità. Non conosceva il Gesù umiliato, disprezzato, l'uomo che stava per essere crocifisso. Anzi, pregò che la vita del suo maestro fosse risparmiata dalle sofferenze. Pietro conosceva Gesù come profeta, come re, quale dispensatore di miracoli, colui che faceva strabiliare le folle e che chiudeva la bocca ai più grandi sapienti, ma non come l'uomo esperto in dolori. «Ecco, il mio servo prospererà e sarà innalzato, elevato e grandemente esaltato. Come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo, e il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo. Così egli aspergerà molte nazioni, i re chiuderanno la bocca davanti a lui, perché vedranno a ciò che non era mai stato loro narrato, e apprenderanno ciò che non avevano udito. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Isaia 52, 13 e 53, 4. Gesù, come uomo di Dio e come Dio fatto uomo, visse da sconosciuto, incompreso dal mondo, dai suoi coetanei, Giovanni 1, 10, 11, dai suoi discepoli, Giovanni 12, 6, nella sua stessa famiglia. Giovanni 7, 5. Non solo. Quando sulla sua vita si abbatté la bufera dell'ingiustizia, nessuno comprese il suo ultimo atto d'amore. Tutti ritennero che questa fosse la giusta retribuzione di Dio. Isaia 53, 4. L'opera di un uomo di Dio non è sempre compresa né riconosciuta. Accettare questa realtà non significa sentirsi martiri o autocommiserarsi. Significa prendere la croce di Cristo, seguire le sue orme. Significa gioire di essere un vero discepolo di Cristo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. Se vuoi essere un uomo di Dio, sappi che la strada per diventare tale non è facile, né affascinante, né amabile, né attraente. Ma ne vale la pena. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza alla gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo, Ebrei 12, 1-3. Per la gioia che gli sarebbe stata riservata dopo la morte, Gesù soffrì la croce, non tenendo in considerazione l'ingiuria degli uomini, anzi la disprezzò. Per il Figlio di Dio fu la gioia preparata in cielo, il segreto della sua forza, della sua vittoria, della sua perseveranza, della capacità di sopportare ogni ingiustizia. L'autore della lettera agli Ebrei ci invita a considerare il comportamento di Gesù per non stancarci e per non perderci d'animo. Ciò che caratterizza la vita di un cristiano è vivere il presente in vista del futuro. Chi non vive in funzione del futuro può anche arrivare ad ottenere grandi successi, ma ha fallito l'obiettivo. Non vorrei essere al posto di coloro che ora salvano la propria vita per perderla per sempre nell'eternità, Luca 9:24. Chi salva la sua vita può sembrare saggio per 80 o 100 anni, ma sarà stolto per l'eternità. Preferisco sembrare stolto per questa vita. Che la tua vita possa essere vissuta all'insegna degli standard di Dio e della maturità, con uno sguardo fisso e costante al futuro, disprezzando il disprezzo che alcuni ti mostrano per la tua fedeltà verso il compito che Dio ti ha affidato. Solo così puoi diventare e vivere come un UOMODIDIO. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi. Poiché egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Salmo 16, 8. Marzo 2001. Ellero,